solamente lei. Quel suo viso speciale, non riesco a togliermelo dalla testa. Sarà incredibile, ma è una tempesta questa mancanza. Non riesco a stare un minuto lontano da lei. Un pensiero stupendo tu sei. Yeah, yeah, yeah. Guardo il cielo anche lì ti vedo, guardo il mare e ancora io ci credo. A noi lo sai, vorrei vederti, abbracciarti, sentirti mia anche per un secondo. Chissà se il tempo ci riserverà un momento, quell'istante in cui cambierà tutto, dove il mondo non è più una sfera ma è una persona vera e sincera. Stasera voglio guardarti, ti prego chiamami, voglio raccontarti di me, sentire una voce incantevole come il tuo sorriso che non va mai via quando stai con me, lo sai. E questi occhi mai li hai visti, sono fantastici, persino le stelle ti invidiano. Adesso qui solamente lei, quel suo viso speciale, non riesco a togliermelo dalla testa. Sarà incredibile, ma è una tempesta questa mancanza. Non riesco a stare un minuto lontano da lei. Un pensiero stupendo tu sei. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. È poco dirti che sei carina, sei così dolce e comprensiva. Quando il sole ti fa vedere tu ritorni in mente. Quando i miei occhi si aprono vedo davanti a me un angelo, il resto è niente. Sei come sapone, mi sfuggi dalle mani ogni volta che il vuoto comincia a riempirmi di pensieri su pensieri. E ritorna ieri, mi scappa anche un sorriso ripensando a quando parli e poi ci pensi, ti blocchi, neanche tu sai cosa vuoi davvero. Lo so, ma non mi arrendo, stai tranquilla, guarda sei così bella. Non c'è più nulla che possa sovrastare questa stella, principessa. Adesso qui solamente lei, quel suo viso speciale, non riesco a togliermelo dalla testa. Sarà incredibile, ma è una tempesta questa mancanza. Non riesco a stare un minuto lontano da lei. Un pensiero stupendo tu sei.